rispetto al livello di ieri a 340. L'altra grande preoccupazione nella Spagna, i tassi sui bonus decennali si sono attestati stamattina intorno al 5,44%. Lo spread sui bund si è moderato a 362 punti base dopo aver toccato 371. Oggi la borsa prende un attimo di respiro dopo i forti cali di ieri. Parigi e Francoforte guadagnano un punto, Londra più 0,6, Milano più 0,63%, recuperano i titoli bancari, Monte dei Paschi, che ieri è crollata di 11 punti, recupera però appena lo 0,37%. È tutto. Grazie Deborah. Dicevamo della Spagna, allora andiamo a Madrid, dove è in corso un Consiglio dei Ministri molto importante. Ci colleghiamo in diretta con Madrid, con Luca Veronese, inviato del Sole 24 Ore. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti. Dunque, allora, oggi, ecco, sì. Abbiamo detto che questa riunione è una riunione importante, cerchiamo di capire quali sono i problemi sul tavolo e perché tutto ciò preoccupa l'Europa. Sì, finalmente oggi il governo di Mariano Rajoy, il governo conservatore che ha vinto le elezioni a fine novembre, presenterà quella che è la finanziaria per l'anno 2012 con alcuni mesi di ritardo dovuti appunto alle elezioni, all'insediamento e alla crisi economica in corso. E molti pensano che questo passo di presentazione delle manovre da fare nel 2012 sarebbe dovuto arrivare prima. Certo, anche perché si tratta di una manovra che non ha precedenti nella storia del Paese, forse neanche l'Unione Europea. Infatti per riuscire a rispettare gli obiettivi di bilancio di deficit che sono al 5,3% del PIL per il 2012, già un tetto alzato e negoziato da Madrid con Bruxelles attraverso non poche difficoltà, comunque per riuscire a rispettare questo limite il governo spagnolo dovrà operare tagli e inserire nuove imposte per un totale di circa 35 miliardi di euro in una fase in cui la Spagna è già in recessione, si prevede un calo del PIL dell'1,7% quest'anno e la disoccupazione è ormai al 23% con 5 milioni e mezzo di disoccupati in tutto il paese. È una situazione quasi disperata, infatti non si capisce bene se questi obiettivi e le manovre che verranno annunciate oggi siano in qualche modo realistici, anzi molti pensano che siano irraggiungibili. Fra le misure è difficile alzare di nuovo le tasse che già sono state alzate sia per quanto riguarda l'IRPEF e l'IVA anche dai governi Zapatero precedenti. Si immagina un taglio della spesa, di sicuro è stato annunciato un taglio del 15% medio della spesa di tutti i ministeri e si teme molto da parte delle regioni autonome spagnole che ci sia un'ulteriore stretta sui loro conti, che vorrebbe dire a catena un problema per quanto riguarda la spesa sanitaria e la spesa per l'istruzione che appunto è di competenza delle regioni. Bene, grazie a Luca Veronese per questi dettagli. Attendiamo naturalmente la conclusione di questo Consiglio dei Ministri. Torniamo in Italia, a Roma, parliamo di giustizia, il governo apre i partiti, ci spiega tutto in diretta Vincenzo Miglietta. Buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno, è così, sulla giustizia governo e maggioranza procederanno all'insegna della trasparenza, questo è il risultato dell'incontro di questa mattina tra i capigruppo dei partiti che appoggiano il governo Monti e il ministro della giustizia Paola Severino. Tra i temi in agenda le intercettazioni, la responsabilità civile dei giudici, più in generale una maggiore efficienza della macchina della giustizia. Nessuno inciucio dunque, per utilizzare le parole della capogruppo del PD al Senato Anna Finocchiaro. Non procederemo a colpi di emendamenti, garantisce il ministro Severino, sentiamo. Abbiamo varato un metodo e sul quale siamo stati tutti perfettamente d'accordo, il metodo del confronto. Noi stiamo per affrontare delle riforme che non vorrei esagerare definendo epocali, ma sono delle riforme estremamente importanti per il Paese, come quelle relative ai delitti di corruzione, come quelle relative alla responsabilità del magistrato, come quelle relative alle intercettazioni telefoniche. Farlo a colpi di emendamenti e di subemendamenti non giova a nessuno. Si tratta di materie delicate che devono trovare una loro collocazione in un sistema e dunque vanno fatte in maniera concordata. Sì, al metodo del confronto dunque spiegano governo e maggioranza, mi auguro che si trovi una sintesi, commenta il Presidente del Senato Schifani, ma che il pianeta giustizia abbia bisogno di un intervento lo evidenzia anche il Vice Presidente della Commissione Europea e responsabile per la giustizia, Vivian Reding, che dice con 5,5 milioni di cause arretrate quello italiano è un esempio di giustizia negata, per questo serve una riforma. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Chiudiamo questa pagina dedicata alla politica con una lettera scritta da Pier Ferdinando Casini al presidente della Camera Fini, che annuncia di rinunciare da subito a tutti i benefit previsti per gli ex presidenti della Camera. Una buona notizia. Dunque, adesso cambiamo completamente argomento. Si è dimesso questa mattina il fisico Antonio Ereditato, che era coordinatore della ricerca, i cui dati nel settembre scorso, ricorderete, indicavano i neutrini come più veloci della luce. Il tutto risultato poi non vero, ma ci spiega tutto Federico Pedrocchi. Buongiorno Federico. Buongiorno Enrico. Dunque, ricordiamo che Federico conduce Möbius, si occupa di scienza da tanti anni. Allora raccontaci un po', spiegaci che cosa è successo. Ma insomma, l'entusiasmo anche di noi tutti i comunicatori era stato forte qualche mese fa, poi dopo purtroppo le cose sono precipitate. Si è scoperta attraverso indagini successive e anche esperimenti un'anomalia che però non era di questi mesi, era un po' vecchia, un po' come dire abbiamo una macchina che improvvisamente fa i 245 km orari mentre invece ci aspettiamo che faccia 240, però scopriamo che nel 2008 avevamo già avuto qualche problema col contachilometri. È un po' questo che è venuto fuori, cioè già nel 2008 c'era un'apparecchiatura, un passaggio insomma che dava problemi, bisognava capirlo prima. Certo, data la portata di questa scoperta ci voleva più cautela, insomma se i neutrini andavano più veloci della luce, che ti devo dire, anche la dichiarazione dei redditi e la ricetta del pollo allo spiedo cambiavano, restavano più la stessa, ci voleva più cautela, quindi queste dimissioni di Antonio Ereditato credo che siano giuste e comprensibili. Bene, grazie, te ne occuperai domani sera alle 20 all'interno di Möbius. Noi adesso chiudiamo questa prima parte di GR24 con la nostra rubrica dedicata all'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Auto di grossa cilindrata, villa da 300 metri quadri e una dichiarazione dei redditi che non superava i 3.500 euro lordi l'anno. Non è stato difficile per i finanzieri di Portogruaro farsi venire dei sospetti. Considerato il tenore di vita dell'uomo e l'attività della sua azienda vinicola, i finanzieri hanno stabilito che avrebbe dovuto dichiarare almeno 50.000 euro l'anno. E quindi per l'imprenditore del vino di Portogruaro è scattato l'accertamento. L'episodio, che risale a un mese fa circa, non è isolato. Basta spostarsi a Colleferro, nel Lazio, e si scopre che appena 3 giorni fa un'azienda che distribuisce vino al dettaglio nella regione era totalmente sconosciuta al fisco e priva degli apparecchi di misurazione fiscale per il rilascio dello scontrino. I ricavi non denunciati ammontano a 16 milioni di euro più 5 milioni e mezzo di IVA. Inoltre 26 lavoratori erano in nero. L'estate scorsa invece nel mirino degli 007 è finita un'azienda vinicola di Cerignola che aveva evaso oltre 5 milioni di euro. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Seconda parte di GR24, queste le notizie che abbiamo scelto come titolo. Nuovi aumenti dei prezzi sui prodotti di uso quotidiano, il famoso carrello della spesa, l'inflazione generale è stabile al 3,3%. Il ministro Fornero difende la riforma del mercato del lavoro. Monti, che oggi è in Cina, avvisa il mondo attende le decisioni del Parlamento. Dopo l'errore sulla velocità dei neutrini si è dimesso il fisico a capo del team. 25 persone scompaiono ogni giorno in Italia, oggi i nuovi dati del Ministero dell'Interno. E a proposito di scomparsi, come avete sentito, in Italia scompaiono 25 persone al giorno, la maggior parte fortunatamente vengono ritrovate, sono soprattutto uomini e stranieri, un fenomeno in aumento come rileva l'ottava relazione semestrale presentata questa mattina al Viminale dal commissario straordinario per le persone scomparse Michele Penta. Sentiamolo al microfono di Alessandra Schepisi. Le persone che scompaiono in Italia, basate sulle denunce che vengono proposte, sono 9.000 circa. La media è 9.000 persone l'anno, significa 25 persone al giorno. Di cui vengono ritrovate? E praticamente il dato dice 25 scompaiono e 25 sono ritrovati, ma siccome abbiamo anche quelli che ritroviamo dopo anni, il vero problema è che i ritrovati sono non solo quelli vivi, sono anche quelli morti. Quindi ogni mese abbiamo un saldo negativo di un -1, -2. Come mai si concentrano nel Lazio? C'è stato un nomadismo notevole. agricole, ci sono vari campi nomadi dove è difficile andare a accertare l'esatta situazione della movimentazione giornaliera, c'è tutto un complesso di cose. Nelle grandi aree urbane è chiaro che il fenomeno è più alto rispetto ad altre cose. Nelle regioni dove non si scompare, in Valle d'Aosta si scompare poco, fortunatamente. Poi per quanto riguarda le motivazioni c'è anche una grossa fetta di non determinato. Sì, che ho precisato che fanno capo a situazioni ante 2007. Nel 2007 è stata introdotta la motivazione di scomparsa. Il resto era tutta una ipotesi, così dice, beh, se n'è andato volontariamente. Quindi dal 2007 in poi quali sono le motivazioni? Sono varie, allontanamenti volontari, allontanamenti da istituti o da comunità, sottrazione di minori da parte dei genitori quando se ne vanno all'estero e si riportano, ovviamente per una situazione di conflittualità nell'ambito familiare, disturbi psichici in parte e fortunatamente, più limitatamente, situazioni connesse al reato. Ci spostiamo in Francia, 19 persone sono state arrestate, sono stati sequestrati i fucili Kalashnikov, è il bilancio di un'operazione diretta a smantellare organizzazioni integraliste islamiche. Parla alla radio di Stato francese il presidente Sarkozy e comunica che l'operazione di questa mattina è solo l'inizio, ne seguiranno altre. Il messaggio, dai detrattori visto come l'ennesimo spot da campagna elettorale, in realtà entra nel cuore di una Francia alle prese con la paura, a più di una settimana dalla morte del terrorista Mohamed Merah, che ha ucciso 7 persone in 3 attentati. Stamattina, in un blitz super organizzato tra servizi segreti e teste di cuoio, sono stati arrestati 19 islamici provenienti da aree radicali. E che ce qui s'est passé ce matin va continuer. Il y aura d'ailleurs d'autres opérations qui continueront. Dopo la morte di Merah il 22 marzo, il presidente Nicolas Sarkozy aveva chiesto alla polizia di procedere alla valutazione della pericolosità di persone note per avere legami o simpatie con l'Islam più radicale. Per questa stessa ragione, 6 predicatori radicali che dal 6 al 9 aprile avrebbero dovuto parlare al congresso dell'UOIF, l'organizzazione vicina ai Fratelli Musulmani, non entreranno nel paese. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo in Italia con l'affidamento degli incarichi a 2 periti. Comincia di fatto oggi il processo con rito abbreviato condizionato. Salvatore Parolisi, unico imputato per la morte della moglie Melania Rea, uccisa il 18 aprile 2011 con 35 coltellate nel bosco di Ripe di Civitella del Tronto in provincia di Teramo. Parolisi è entrato in aula da un ingresso secondario, evitando così la folla di curiosi, telecamere e giornalisti. 63 persone arrestate, un'operazione contro l'andrangheta. Sentiamo il servizio. Come la tela di un ragno, le cosche dell'andrangheta del Cosentino erano riuscite ad infiltrarsi in numerosi appalti pubblici. Quanto è emerso dalle indagini condotte dai carabinieri di Cosenza e del ROS, che hanno portato a 63 ordinanze di custodia cautelare in carcere. In particolare sono stati ricostruiti 12 omicidi e 3 tentati omicidi. L'operazione, chiamata appunto tela del ragno, ha portato anche al sequestro di beni per 15 milioni di euro. Al centro dell'inchiesta le dinamiche criminali di Cosenza e del versante tirrenico della provincia, con la ricostruzione della maggior parte dei fatti di sangue avvenuti negli ultimi anni. Ad essere colpiti sono stati autori e mandanti di numerosi omicidi ed attentati compiuti nell'ambito di una guerra di mafia che ha visto contrapposte diverse cosche del Cosentino per il controllo negli anni 1999-2004 delle attività illecite sul territorio. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Cina è stato raggiunto un accordo per migliorare le condizioni di lavoro degli operai che costruiscono i prodotti della Apple. Nei momenti di picco di produzione, alla Foxconn si arrivava a lavorare 70 ore a settimana, 11 giorni consecutivi, ben oltre quel che è consentito dalla legge cinese, ben oltre gli standard della Fair Labor Association, che ha condotto un'indagine approfondita commissionata da Apple. Perché la Foxconn è l'azienda di cui tanto si è discusso, quella nella quale i sogni della casa di Cupertino, iPad, iPod, iPhone, diventano realtà, ma anche quella le cui fabbriche cinesi sono entrate nelle cronache per una serie impressionante di suicidi attribuiti alle massacranti condizioni di lavoro. Ora, all'indomani della pubblicazione di questo rapporto, Foxconn ha deciso di mettere mano a tutto questo. I salari, molto bassi a giudizio dei 35.000 lavoratori interpellati anonimamente, non cresceranno, ma verranno assunte persone per arrivare entro il 2013 a standard di orario adeguati e a migliorare anche quelli su salute e sicurezza. Un dato che per noi ha dell'incredibile intanto emerge dal sondaggio tra gli operai proprio sulle ore di lavoro. Il 48% le trova ragionevoli, il 33,8% vorrebbe lavorare di più per fare più soldi. soldi, mentre solo il 17,7% dichiara che pensa di aver lavorato troppo. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A proposito di lavoro, 5 milioni di euro sono stati assegnati a 48 reti di scuole che hanno partecipato al progetto del Ministero della Pubblica Istruzione, quello del Lavoro e dell'INAIL, per sensibilizzare gli studenti sul tema sicurezza sul lavoro. Il responsabile del progetto, Giovanni Bocchieri. È importante che bisogna agire e lavorare sulla prevenzione. Il testo unico sulla sicurezza ha un'enfasi proprio sulla prevenzione e ha un richiamo esplicito alla necessità di lavorare sulla prevenzione, quindi sulla diffusione della cultura della sicurezza già a partire dalle scuole. E le scuole che sono state premiate oggi, quali progetti hanno presentato? Diciamo che sono tutti progetti molto originali, anche perché le scuole sono state, diciamo, sollecitate, quasi costrette dal bando stesso a contaminarsi con altri soggetti del mondo della formazione, soprattutto del mondo del lavoro. Per la prima volta non si tratta di un progetto, di progetti fatti solo dal circuito scolastico, ma si tratta di progetti fatti in collaborazione, fatti in rete tra scuole e enti di formazione e anche organizzazioni come l'ANMIL, l'Associazione Nazionale dei Mutilati e Invalidi sul Lavoro, che ha potuto dare così un contributo importante, una testimonianza attiva delle esperienze di chi ha invece purtroppo subito degli infortuni sul lavoro. Chiudiamo con una notizia che riguarda il mondo dei treni. È fissato il 28 aprile sulla prima tratta Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Milano il debutto del treno Italo della NTV, la società ferroviaria privata che farà concorrenza a Trenitalia. Entro fine anno sarà completata l'offerta sulle linee Salerno-Torino e Roma-Venezia. Dal 15 aprile saranno in vendita i biglietti. È tutto per questa edizione di GR24. Grazie a Fabio Cantadori che si è occupato della parte tecnica, edizione curata e condotta da Enrico Paglierini. La prossima in onda alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.